Allora, eccoci qui con una nuova sigla. In realtà è la seconda famosa puntata qui dai microfoni di Città del Capo, Radio Metropolitana. Ancora una volta assieme 451 frammenti sonori e altri suoni, in compagnia ancora di DJ Tetro per la seconda parte di Kraut Rock. Manca purtroppo questa volta. Abbiamo perso qualcuno per strada. Salutiamo Gino. Che manca non Gino può esserci, che ci ascolta, purtroppo non è riuscito a venire. Comunque lo salutiamo, sarà con noi in spirito, perché tanto lui è sicuramente uno dei fautori anche di questa trasmissione, di questa particolare puntata. Mi ha garantito che ci ascolta. Perfetto. Dunque, almeno per una parte sostanziale. Se l'ha garantito a te, pure. Se l'ha garantito a me, vuol dire che siamo a posto, perché non è che mi garantisce molte cose, Gino. E poi, se ne ha voglia, magari può fare un intervento in telefono. Infatti, lo disturbiamo. Magari. O via satellite, anche perché qua abbiamo una tecnologia. No, soprattutto stiamo parlando di Cosmo, quindi via satellite. Via satellite, perfetto, bella sta battuta. Va bene, allora Cosmi siamo minori qua. E poi tutta la linearità che ci porterà fino ai nostri giorni. Fino a oggi. Sì, in pratica il programma sarebbe di recuperare alcuni dei minori che non abbiamo toccato la volta che non abbiamo toccato la volta scorsa, dopodiché vedremo da un passaggio temporale cronologico, quindi sì, faremo in ordine cronologico dagli 80, 90 e poi l'ultimo decennio con le influenze più evidenti. Perfetto, e dunque cosa di meglio di partire proprio dal prima? Forse dal primissimo singolo assoluto cosmico. Assoluto inedito, credo. Beh, o molto quasi. Molto difficile, ristampato in occasione del Record Store Day in 7 pollici. Il primo singolo dei Tangerine Dream, che non sembreranno tali, Ultima Thule, un brano che sicuramente che sorprenderà, perché rispetto a quello che è la logica Tangerine Dream siamo diametralmente agli opposti, ovvero sia chitarre elettriche. Esatto, allora questa curiosità che ci introduce di nuovo nel 1971. Perfetto, Tangerine Dream. We'll be right back. direi assolutamente inaspettati questi Tangerine Dream, molto una garage band quasi. Sì, infatti. Molto bello. E dunque niente, adesso allora intanto ricordiamo. Sì, ricordiamo ad esempio a coloro che fossero interessati a riascoltare o ascoltare per la prima volta la prima puntata, la prima parte che abbiamo messo in onda da Radio Città del Capo esattamente due domeniche fa, sì. Dunque 14 giorni fa, è possibile andare a riascoltarla sul blog di 451 frammenti sonori, molto semplice, 451frammentisonori.noblogs.org, lì troverete i podcast e la possibilità di ascoltare la trasmissione. Esatto, con i classici, quelli con i classiconi più famosi, diciamo così. Sì. Tra poco metteremo anche questa qua, prima la facciamo però. Sì. E niente, invece adesso presentiamo quest'altra curiosità infatti, di nicchia, molto particolare. Nel 1971-72, non si capisce bene la data di uscita di questo disco, uscì una formazione DOM, senza la E, perché poi negli anni 80 c'è stata anche una splendida performance di una parte dei Wire come DOM, sì, molto vicina all'industria, con qualche sì. riferimento anche cosmico, ce tra l'altro. Erano parecchio cosmici, infatti, costesi quantomeno. Grande Bruce Gilbert. E DOM fanno questo disco di Age of Time, veramente una cosa strana, tra folk, avanguardie, freeform e momenti così molto astratti, tipo il pezzo che stiamo sentendo in sottofondo, e ci andiamo pure appunto a prendere questi cosmi minori, lontani, però assai affascinanti. Because this boy is very big. Thank you. Allora, anche questi qui molto psichedelici, oscuri, sicuramente è una cosa molto interessante, però un po' diversi dagli altri, sicuramente. Sì, beh, poi questo sottobosco tedesco che poi farà riaffiorare anche certe forme freeform negli anni 90. Dopo sentiremo ad esempio un gruppo nella parte appunto dedicata ai 90 che riprende proprio queste forme minori, vabbè, svegliamo anche un po' in Nassui Tund poi in realtà, sì, so, sì, che riprende proprio queste forme libere, no, di cosmice. Invece noi adesso passiamo a una parte più mistica, quella dei Between, altro gruppo minuscolo ma con una certa, con un certo spessore. Assolutamente, un gruppo che ha avuto una sua, a parte il suo leader Michael Amen, che era un personaggio già bello potente e aveva questo suono già meno cosmico, leggermente più elettronico, un po' così, già che puntava verso certe derive della New Wave, volendo. Quindi è una anche avanguardista, sì, assolutamente. 1973, fra l'altro, quindi anche questo è un bel precursore. Sì, uno dei primi, che poi dopo i Between sono durati anche pochissimo. Sono stati una meteora velocissima. Poi dopo lui ha fatto qualcosa a nome suo e poi... Sì, ha fatto una produzione sua e poi che fine abbia fatto, non ne abbiamo notizie. Bene, allora, è Between da... Il titolo è Devotion. Ah, tra l'altro possiamo anche dire la fonte, che è molto utile citarla forse. Per chi questa... volesse fare una rapido assunto di tutto il mondo cosmico, sono uscite delle raccolte Soul Jazz qualche anno fa, intitolate Deutsche Elektronische Musik. Sono due volumi in vinile e un CD doppio, edito Soul Jazz, dove si trovano tracce fra l'altro rarissime come un brano di Cora Schnitzler, quotatissimo nel mondo dei collezionisti, e altre cose minori molto molto interessanti, gruppi che anch'io sinceramente mai sentiti nominare. Bene, allora andiamo con i Between. Oh, pezzo veramente incantevole. Sì, una piccola perla anche questa, veramente. Mi ha riportato indietro nel tempo, perché era veramente una vita che non ascoltavo questo brano, e mi ha fatto ricordare che appunto questo piccolo gruppo va assolutamente rivalutato, perché hanno fatto poche cose, ma la qualità è alta, e comunque siamo sempre sulla traccia, sì, della parte più mistica, quella un po' alla Popol Vuh, insomma, siamo, tanto periodo, sì, siamo sempre quello. Più sospesa del crowd. E anche quelli che seguono adesso, se non sbaglio, sono abbastanza sulla linea. Beh sì, andiamo a mettere due matti come Vituser e Westrup. Beh, qua c'è veramente una forma di zappa cosmico, un viaggio siderale con molti trip, come ricorda anche l'album Trips and Traume. Forse proprio il titolo racconta proprio la loro musica meglio di qualsiasi presentazione, probabilmente. Andate comunque a cercarvi le foto su internet, perché sono veramente da vedere i due personaggi, con dei mazzolini di fiori in mano. Beh, d'altronde siamo ancora sempre nel 71, sì, per siamo cui in piena epoca, il periodo è molto quello. Allora, questo è il loro primo album, poi ne hanno fatti anche loro, hanno fatti solo un paio, se non sbaglio. Sì, sì. Poi sono stati nei Cosmic Courier anche loro, lì sono diventati un po' più famosi, sì, forse, no? Ma relativamente. Ma direi che non hanno varcato molte soglie, se non quelle del Cosmo. Va bene, allora Vituser and Westrup. In die dortige Straßen. Ban Camoneu. Plötzlich kommt ganz ohne Plan vom Ozean mit Affenzahn. Den Pelikan und den Pavian, Camoneo. Wir trinken dann im wilden Wahn den Lebertran aus Zellophan. Und suchen dann ganz spontan mit jaulendem Sopran beim Vatikan Uran. Bel viaggione questo. Folle, folle, seriamente folle. Vitoser insieme a Westrup, che poi Gino l'altra volta raccontava una cosa fuori, insomma, dalla diretta, strana, ovviamente si dava Vitoser una nomea strana, nel senso si era pensato a un certo punto che fosse un personaggio italiano, uno di quei cantautori un po' freak dell'epoca. Sì, però poi dopo non c'è nessuna verifica in nero. Basta che non salti fuori Claudio Rocchi. Ecco, vedi. Beh, sarebbe in linea. Potrebbe essere come... Questa chitarra blues poi sotto, una cosa veramente deviata. E invece noi adesso abbiamo in sottofondo, ma molto in sottofondo, perché sono già al massimo, ma... Sì, è molto minimale. È un home recording, poi. Quest'altra curiosità molto dronica. Sì, Plains, 1974. Si trovano notizie soltanto su questa enciclopedia del rock tedesco, che si edita appunto in Germania e penso soltanto nei paesi anglosassoni, qua in Italia non è mai arrivata, quella con l'occhio in copertina. Chiaramente Gino ce l'ha, Gino la sorella, carino. E Plains, si sa soltanto appunto che questa formazione germanica era molto influenzata da Riley, addirittura dalla Monte Young. Infatti è un viaggio dronico dentro però appunto una mentalità che respirava quelle corde, insomma, cosmicheggianti. Bene, ascoltiamo un piccolo estratto, perché poi gli anni 80 incombono. Sì, Plains. Ci stiamo arrivando. genere, sfumiamo un po' questo lungo drone veramente ipnotico, molto, molto originale anche questo, dei Plains. Sì, oscura, veramente non si sa quasi niente, si trova soltanto informazioni su questa enciclopedia. Te trovi, cos'è Cosmic, con il titolo dell'enciclopedia Cosmic? Come pure, non mi ricordo neanche più neanche io, una roba, un libro fuori catalogo pazzesco che non è introvabile, The Crack in the Cosmic Egg. Ecco, ecco, sì, sì, sì. C'è anche su internet, per cui lì trovate veramente tutte, anche le cose più oscure. Sicuramente quello più completo, cita veramente le cose anche più impossibili, tipo questi Planes, che sono veramente una private release questo disco, quindi ce lo sono fatti a casa tra di loro, l'avranno data a 5 amici. Beh, potere adesso della rete, perché anni fa completamente era impossibile trovare questi dischi, vero? Noi anni fa, tra l'altro, cercavamo addirittura dischi anche che poi insomma, di personaggi citati dentro le enciclopedie musicali e che non si trovavano, infatti. Non c'erano gli stati, tipo la Monte Young, insomma, sì. Tanto per citare una delle influenze di Plains. Bene, adesso allora invece andiamo a un altro dei maestri di cui ne avevamo parlato un pochino di passaggio l'altra volta, Cora Schnitzler, che negli anni 80 diventa una figura importante per quello che è la New Wave, proprio come tipologia di suoni, come influenze, soprattutto per quanto riguardava la sua ritmica elettronica. E adesso ascoltiamo un brano, anche questo molto molto raro, Auf dem Schwarzen Kanal, che del 1980, quindi siamo già in piena era Wave, fa capire che questo signore comunque era molto molto influente nei confronti di quelli che poi ascolteremo. Infatti anche questo non a caso è tratto da questa ottima raccolta che citavi, esatto, prima. We'll be right back. E allora siamo entrati in pieni anni 80 con questo che è molto esemplificativo, direi, con questo suono decisamente ben in tema, e sono i famosi, i famigerati, insomma non sono famosi per niente, Der Plan, che erano un gruppo veramente un po' curioso, usciti proprio in quel periodo, con questo Kurt Dahlke che si faceva chiamare Pirolator. Esatto. E faceva questi giochini anche di sintetizzatore molto buffi. Synthwave purissimo. Sì, con però una memoria cosmica. Con una memoria cosmica, sì, perché il suono poteva anche ricordare un po' i primissimi Duff. Anche loro tedeschi. Anche loro questa synth in loop, queste linee di basso molto secche. Però si sentono gli anni 80, la sonorità, si sentono. C'è un cambio, anche se c'è il richiamo, ma c'è un altro suono. Sì, c'è già l'influenza anche di tutto quello che è l'altra parte, che non è più kraut, ma è questa Britwave, che è poi è arrivata anche in Germania. Esatto. Sì, la famosa Cold Wave, che suonava però molto cosmica, sì, proprio per questi synth freddi. Che ricordavano in versione scura, no? La versione più oscura di quello che erano i voli psichedelici degli anni 70. Infatti, a proposito di Brit, arriviamo adesso a due nomi importanti. Adesso iniziamo con quella che è stata una delle collaborazioni più importanti, oltre che il segnale di quali erano le influenze. Quindi Jah Wobble, il bassista dei Public Image con John Lydon, che fa un brano con due Can, Liebeszeit e Zucchai, e il risultato è assolutamente straordinario. Questo è di D'81. Dunque siamo sempre in piena wave. How much are they? We'll be right back. Beh, qui i due can sono ancora in gran spolvero, direi. Beh, direi che la parte ritmica è impressionante, più il basso di Wobble, che era assolutamente dub, sì, influenzatissimo da quello che era il periodo reggae bianco della wave inglese di quel periodo, una commistione che credo abbia segnato e fatto anche un grandissimo brano. Bene, allora abbiamo pochi minuti prima della pausa del GR delle 11:30, per cui adesso un piccolissimo, brevissimo omaggio a un autore del periodo. E rientreremo tra 10 minuti circa. Sì, però prima di rientrare... Un'altra sorpresina. Daniel Miller. L'omaggio all'uomo cosmico degli anni Ottanta. Industrial cosmico, di tutto. È riuscito a transitare veramente su tutto, dall'industriale al cosmico, al tecnopop. Al tecnopop. Producendo cose. Si è inventato la Mute, ovvero dai Depeche Mode a Boyd Rice, a Throbbing Gristle. Nella sua prima compilation c'era anche i Soft Cell. Sì, eccezionale. Soft Cell. Bisognerebbe fargli un monumento. Infatti, e con. Lo facciamo qua. A Città del Capo. A Città del Capo, dentro una statua. E con Daniel Miller adesso ancora pochi secondi, perché vogliamo chiudere questa prima parte di l'omaggio al krautrock. Stiamo arrivando rapidamente agli anni 90 con una pietra miliare. Con una pietra miliare che altro non è che Socialist dei Public Image, brano strumentale dove Lydon dimostra tutto il suo amore per il kraut. Allora, a risentirci dopo il GR. Warm. Leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join the car crash set.